que viene el primogénito de Imor. Ecco che viene il germoglio di David. Ecco che viene il leone, il più forte. Tu sei l'alfa. Dissipato.